confiante, cerca di capire, no? Ho capito, non sono nella partita, forse è facile, qua e seppure, ma diciamo che come ricevitore prende molti meno colpi di un bau bau, che ne so, uno a caso, l'UV5R, tu lo metti a un'antenna esterna anche misera, anche bassa, e ha un netto calo della ricezione, prende colpi da ponti cellulari, radio effemera, TV, tutto. C'è proprio una desensibilizzazione. Quelli li attacchi e sembra che ricevano quello che non riceve l'altro. Cioè, come ricevitore è fatto meglio, poi dentro non so se sia lo stesso circuito. Guarda, gran parte dei Baobao, UV5, UV82, hanno praticamente lo stesso apparecchio con bucce diverse, non cambia niente, GT3 è lo stesso, viene assordato, tutte prove fatte nei mesi e negli anni passati anche. Addirittura persino mettendo un'antenna più performante di quella di serie, no? Tipo Nagoya 771 o 773, certe volte c'è un calo della ricezione, non sono fatti per antenne esterne, ve prendono bei colpi. Stesso discorso prima in TMR con Pomponio, io sentivo solo lui. Però guarda, se ho usato un'antenna amatoriale da 435 passo eccetera, non c'è la gamma amatoriale, ho fatto con le antenne alla 446, c'è una bella differenza. Allora no, in realtà Gianfra, io qua per ricevere, e non solo, avevo quella famosa Sirio CX4340 che ha il centro banda proprio ai 440-450, lì in mezzo. C'è la 425, 440, 460 mi pare, quella è proprio fatta apposta, infatti SVR nulla. Ed è una specie di tre quarti d'onda, è strana, no? C'hai un pezzo di tubo quasi per la metà, il resto della metà è uno stilo, lunghezza totale 60 cm, è un mozzicone, e poi è bassa, è molto bassa, è che ho questo ripetitore cellulare a 30 metri, proprio 30 metri in linea d'aria. E si sentono rumorini, rumoracci, boh. Sì, però c'è stata una cosa, sto parlando di TMR, non di DMR, sì? Sì, però sai, certe cose sono simili, il gruppo di chiamata, il codec, adesso ti ho detto il programma non ce l'ho sotto mano, casomai mi stampo la schermata del programma. Ma non che debba toccare nulla, e tantomeno mettere cifrature, perché poi non è, i privati non ne possono mettere cifrature, sono forze dell'ordine. Ma volevo capire le voci cos'erano. Va bene, ne riparleremo. Piuttosto, visto che ho il ricevitore, vediamo se ti ricevo anche col portatile, con questo radioncino. Però comunque tieni presente che queste radio stanno dando anche a 4 tubi, sono, insomma, sono dei giocattoli, capito? Perché non hanno tutte le cose che sono quelle che costano. E esattamente giusto, poco spendito qua, no? Tutto lì. Allora, bella porcheria, non arrivi in questo radioncino. Oh, l'antenna è ridicola, ti dico quant'è l'antenna, poi non so se ce ne sia un pezzo all'interno anche. Dunque, l'antenna 42 centimetri, poi non so come, questa va bene per la radio FM, per altre fesserie, però per la CB è troppo corta, infatti non arrivi qua. Va bene, mamma mia che rumore sta facendo questa alimentazione, mi fa impazzire alle volte. La ventolina si mette a gracchiare lì, a ronzare. Io invece ho provato ad ascoltarti col mio, che è l'Intec. Praticamente sento un'alternata che fa lo scala, c'è un antennino che è più piccolo di quelli di VHS, quindi puoi immaginare cosa ne succede. Questo si chiama Albrecht Air Control M8. Poi qua ci scrivono sempre Police Band, no? Non so in quale paese, la Police Band sarebbe quella, vabbè, sarebbe tutta da 145 a 176. Albrecht è tedesca, ma può darsi pure che la polizia tedesca fosse là, non lo so, non ne ho idea. No, dunque, allora, c'hanno altre frequenze. Adesso non so se siamo ancora nella sostanza, anche, no? Può essere basso, mi diciamo anche io di credo di dire poco, però oramai anche lì sono passati tutti sul tempo, era tanto vero che mi ricordo, diciamo, delle poche polemiche per la copertura nelle stazioni, cioè nelle metropolitane che sono sotto tempo. Quindi il risumo che le abbiamo risolte con l'inserimento di microfono. E quindi anche loro operano in testa folle. Sì, infatti questi ricevitori giocattolo sono di concezione antica. Cioè io mi ricordo, io l'ho avuto di colore azzurro negli anni 80, no? E lo dava il catalogo Intec con marche mai sentite poi, no? CB, TV1, FM, AIR, Weather Band, banda quella del tempo, in America forse, andano Police Band. Ma pile, non so le pile in che condizioni siano, comunque. Posso buttarlo dove l'ho preso, carità. E comunque sì, dicevamo anche quelli Jaston, no? Gli originali del Pullman, che quelli sono giocattoli. Non è roba paragonabile a Motorola, Itera. Poi vedo che bene o male la portata è la stessa. Come dicevo prima, no? Non hai l'idea della distanza però. Cioè lì o prendi o non prendi. Così, dal tutto al niente. Un po' surreale come cosa. No, come direbbe qualcuno, mi consenta. Hai detto una cosa totalmente nebbrata. Adesso io ovviamente sono presente con le radio, le cose che ho fatto. Io faccio prove con professionale. Dico solo che da una sola radio, praticamente se potessi regalare quei portati, probabilmente a tutti i CB che sono presenti qua, sul canale 23 e anche a quelli che sono sulla 442, con uno solo, per darti una parte di questo. E devo dire che quello che utilizzo io potrebbe andare tranquillamente sulla struttura della città, non sono esattamente a 8 km dalla città, senza problemi, proprio con eccellente copertura. Prova ad andarci in analogia. Lì ci saranno anche sensibilità, poi anche non so io quanto sia la sensibilità del ricevitore, Gianfra, se è di bocca buona, se è più sordarello, sì, comunque roba commerciale quella lì, proprio per volgari PMR potrei definirli, poiché abbiamo anche la sezione digitale rilevante. Qui con pomponi solo li abbiamo usati, così tanto per prova, poi buttati in un angolo, rendere non li puoi, perché non ne vuole nessuno, le batterie di ricambio non si trovano, le trovi in Germania ancora. Però finite quelle non avrei più batteria per quella portatile. Non esiste il battery eliminator come i Bao Bao. È un pasticcio. Bisognerà cercare di aprirle in qualche modo e cambiare gli elementi dentro. Una batteria litio, se si può fare. Ma basta poco e sfasci tutto. Sì, ma infatti io ti pare roba professionale, ma manco per le scatole. Prezzi proibitivi, ma poi non mi serve. Anzi, ti dirò, era un capriccio, era una curiosità di provare, poi, come sempre, provare e accatastare, provare e accatastare. Gran parte della roba comprata, non solo in questa per le radio, anche tante altre e tanti altri hobby, provato e accatastato. Alla fine, se non ti entusiasma, finite le prove, basta. Bene, molto bene. Sì. Poi, come puoi dire una cosa, c'è anche molta confusione nella gente, perché il catalogo agli apparati amatoriali professionali e non lo sono neanche per fare, appunto. Perché innanzitutto sono costruiti in maniera diversa, le esigenze del professionale sono differenti, in termini di qualità, di resistenza, di tradizione che contrattenna, devo aspettare dalle norme che verifico. Ma ti faccio un esempio, i miei apparati, io ho tutta la serie intera, e c'è anche lo Yaesu per ne ho avuto due, che c'hanno anche quello digitale e il Fusion cosiddetto, dai, per farla breve. E guarda, ti posso dire che siamo anni luce come qualità, come ricezione, come funzioni. Ma la cosa più seccante è che un apparato che vedo la Yaesu Fusion costa la bellezza di 400 euro quanto intera, è una porcheria, è una porcheria in ricezione, perché io mi becco quando l'accendo, già da oggi non me ne arriva di direzione d'immagine, la cosa lì, il bolletto è meglio, quello che è a 156, 425, 50, una cosa che è in interrotto, poi tante altre missioni, insomma sembra per il ricordo il portatile su canale 14 o 18, una cosa del genere. Me li ricordo, quando avevo 7 anni mi pare, mio zio mi regalò degli ISAM, marcati ISAM, stiamo parlando dell'anno di grazia 77, forse anche 78. Praticamente uscivi dalla camera, già non prendeva più, poi questo fruscio costante, non avevi squelcio, non avevi nulla, era proprio di cartone quasi. E sentivo voci, queste voci, ho detto, ma chi saranno questi? Conta che avevo 7 anni. E non sapevo nemmeno dell'esistenza della CB, della banda CB quando ero bambino. Poi quando abbiamo preso i portatili da scarpa, quelli degni di nota, hanno 3 watt, 3 canali, quelli quarzabili, abbiamo fatto le prove tra di noi, qua in casa, e poi una notte, te l'ho detto, il primo che ho beccato dei CB Falcone e mi ha fatto il trattamento. Ma come sei fortunato? Ne stavamo parlando ieri con uno Kawasaki, sembra che avesse il radar Paoletto, come intercettava un ragazzino tenero, più o meno tenero, ciao, ma come ti chiami, ma ti posso fare una domanda, e sei peloso, ma ti posso fare un gioco, è proprio un cliché. Sì, sì, ma guarda, lo so bene perché c'ero anch'io che all'epoca c'ero già la radio, ma la radio credo sia. Adesso a parte portatili canale 14 quando ero piccolo, piccolo intendo avevo 15 anni, cose per me. Dopo ho iniziato a comprare un pacche qualche da che canale sono risposto. Però mettiamo una risposta per canale. Dopo tutto questo tappeto è rimontato dentro una scatola, un nuovo contattore, eccetera, e l'avevo portato un po' per il canale, mettendo tutti i dettagli. Poi quando ne ho avuto 18, ne ho preso un altro, l'ho preso a Napoli, uno del militare, ho trovato su una campagnola e mi hanno subito risposto. Sto curioso, ed era un 23 canale, ma molto, molto bello, molto, me l'ho pagato quattro soldi, sì, che era lì, ho buttato al mercatino, era, non mi ricordo neanche la marca, poi ho avuto talmente tanti, così con la memoria. Quello che ritengo che fosse la più grande cagata del mondo, l'ultimo dei tre. L'ho avuto, a me piaceva molto all'epoca l'estetica, i canali, tutto, certo che gli splatter che prendeva, mamma di turchi, era una cosa, e invece, guarda come sono passato, avevo venduto il Multimo dei tre a Pomponio, ho preso un tipo superstar, no, un samurai, che poi era un superstar 3009, e già ho notato una differenza notevole, proprio l'altro era, non aveva filtri, nulla, tutto ci passava. Con quel samurai, alias 3009, è cambiato tutto. Sì, se era vicinissima alla stazione qualcosa la becca, ma un altro mondo, un altro mondo. Allora adesso ti dico quali sono stati i miei primi portatili, veri però, cioè quelli dell'84. Se c'hai internet, CTE Alan 33, CTE Alan 33. Tre canali, 3 watt, sembravano, erano molto carini perché sembravano dei radiotelefoni militari. Se hai modo di vedere la foto. No, io ho avuto, guarda, il più bello che mi è capitato è stato lo Zodiac, che era quello metallico, però uno di pochi allora metallico, totalmente metallico, pesante, che è un accidente, e una antenna lunghissima. Ed era canalizzato, credo, 3 canali, non so, dentro 6 canali. Ed era, me lo ricordo sempre, era verde. La scatola di metallo robustissima della Zodiac, verde, come sapeva sotto, c'era la cerniera, addirittura. Il più bello mio era il famoso Dynacom 80 Lafayette, che poi c'era con tantissimi nomi, telaio di metallo, scusa, telaio di alluminio, sì, alluminio in particolare, ma caspita, aveva, mi pare, 80 canali, tipo 40-40 sotto, che non mi ricordi. Aveva il famoso smitterino micro tipo Pony 6 canali, vabbè, irrilevante, però presa frontale microfonica a 4 poli, il display a cristallo LED, attacco alimentatore, attacco all'antenna esterna, attacco cuffie, attacco, mi pare, addirittura per carica batterie, non so se fosse tutt'uno con l'alimentazione. Quello era un bijou di apparato, un bijou. Purtroppo, per fare una modifica stupida, è stato bruciato, non da me. Nuovo era, nuovo. L'ha avuto anche Natalino, mi pare. Era con tanti nomi, comunque lo facevo. Forse anche marcato Intec. Sempre stiamo parlando seconda metà anni 80. Non ne hanno più rifatto perché componenti classici all'epoca, vabbè. Io l'ho avuto, non so se si chiamasse Dynacom, non per la Fayette, c'era la manopola davanti con tutti i canali, però non mi ricordo se ne aveva 40, più 40, una cosa del genere, 80. Comunque mi ricordo, c'era l'antenna lunghissima, anche quello. Era molto in bara, mi sono collegato senza problemi con Sassari, quindi prossimo prima a fare il suo parametro. All'epoca avevamo solo una M, purtroppo, però vabbè, andavano. Eia, quello è il più bel portatile, completo, quel, potevi mettere il mic, no, attaccavi antenna esterna, alimentazione, mettevi il mic, quattro poli era fatto. Mi ricordo anche che proprio quell'apparato specifico con nome Dynacom c'era 40 canali, cioè Dynacom 40-40 canali, Dynacom 80-80 canali, non mi ricordo se erano ripartiti dall'1 all'80 oppure 40 più 40 sotto, poi c'è il Dynacom 120, uno dice 120 canali, no, era 40 canali però AM/FM, credo fosse uno degli ultimi di quella serie comunque, AM/FM. Sì. E poi c'erano tanti attaccati, tanti soldi buttati, vabbè buttati no perché nel suo fondo c'erano altro, grandi giochi, dai, non sono mai buttati, infatti sono quelli da quelli di adesso. Sì. Poi ti faccio notare che tu sei, hai confuso alcune cose, perché sto ascoltando, non ricordo quando, ha detto i radioamatori sono tutti digitali, sono tutti in digitale oramai. E io tra me ho detto magari, non c'è proprio nessuno, capito? Ogni tanto ti tocca andare sul link per sentire qualcuno, ma poi non ha soltanto questa roba. Ma sì, poi l'hanno ripetuto anche gli altri, dice ormai non si sente nulla, ma in realtà poi proprio in questo periodo sento il Ponte, vabbè Ponte Cisa non fa, poi 6625 spesso occupato, 7875 idem, 433 500, 525, anzi ho sentito in questo periodo più gente che non nei mesi scorsi. E poi se uno non accende, non fa scansione, è chiaro che non sente mai nessuno. Ah così, tu vorresti tutto in digitale, così noi poveri ascoltoni non ascoltiamo più niente. Anche questo è un tuo errore, guarda. Noi sei pigro, evidentemente, a studiare. Basta una cretinazza, ma guarda, una cretinazza di per uno che sa fare due saldature, ma neanche la saldatura, guarda, ci vuole Dio. Può benissimo ascoltare. C'è un programmino che tra l'altro adesso stanno facendo anche quelli per il Tetra, per Star, per cose che ti fa ascoltare tutto, ti dice chi è, chi non è, solo bisogna usarlo, bisogna avere la pazienza di andarselo. Ma infatti io mi chiedo, ma quanta cosa vi state perdendo solo per non avere un normale PC e un normale cavetto, un cavetto in cui gli audio mi piace. Ma il PC c'è, però a me non piace dipendere dal PC, cioè come dire, è molto statico, sempre devi stare in casa. Certo, potendo permetterlo avrei preso un ricevitore con i vari modi, Vista, Fusion, DMR, ma costano troppo, dai. Poi, se non fai un'anima, tantomeno vale la spesa. Poi, antenne in casa, vabbè, relative, solo quella Sirio posso usare per ricevere, è l'unica che ci stava, perché qualsiasi antenna più lunga di 60 cm avrebbe toccato il terrazzino e quello di sopra. Quindi è stata una scelta obbligata a mettere quella, peraltro è solo UHF, ricevi anche il UHF, però perde un po'. Dovrebbe essere viceversa, comunque vabbè, col computer non ve lo fai, se a casa lo accendi, ascolti. Però il problema è, non è tanto di avere il computer attaccato alla radio, il problema è che è difficile sentire qualcuno, tutto lì, capito? Poi sono anche programmi che fanno tutto loro, non li designate, se lo metti nel sale, trovi, non dico la presa delle cuffie, ma ti occorre una città nella, diciamo, più pulita, ma non ci sono problemi. Tu pensa che con quel distributore che c'è anche essere collegato al computer, potresti ascoltare tantissimi segnali digitali di testo, però in HF. Qualcosa ho visto, sì. Naturalmente, aspetta. Mi? Che? No, stavo cercando un video di un radioamatore che stava usando una cosa simile per modulare DMR tramite computer. Faccio il filo adesso. No, dicevo, il ricevitore è meglio evitare la presa cuffia, no? Meglio prendere il segnale dalla... già capito, no? Prima che passi per l'amplificazione audio. Guarda, i tedeschi, sui tedeschi spesso vedevi questi standard Uniden o Albrecht, lo chiamavano, e prelevano il segnale dalla... Vieni in aiuto, già capito. E dalla... dalla IT, dai. Per media, ad esempio il 2000 da qualche modo è un percorso favoloso, la dolce fila è proprio va diretto, senza neanche per farci scontri. Però cosa ti volevo dire? E anche io ce l'ho con la banca, c'ho due, è digitale, già tutti i mondi. Però, tutti i modi, però, siamo sempre lì, fa capo. Ce ne sono quasi tutti gli enti, ad esempio sono tutti DMR, però è criptato, quindi fa per capo. E poi altre cose, non ce ne guarda. C'è il paradosso addirittura, che mi sento più spagnoli mi sento con tutti i sistemi, arrivano benissimo, in realtà erano sparati, i francesi sono anche qui, con l'americano, ma più gentile, molti spagnoli ci sono, sì, 22. Però poi da noi la terra ci appassionano poco, così è. Allora, a me, guarda, ho tratto questo qua, tale IK7, come su YouTube, tale Leonetti, no? Motorola DM4601 Decoding DMR Basic, e si vede praticamente uno schermo di tipo MS-DOS, no? Dove vedi dei dati a me, GFSK, slot 0, non so cosa sia, e si sente la voce demodulata più o meno bene, mi aspetta, per darti l'idea. Audio, modulo 3, prova 3, radio, 1700 GML. Cioè, col computer lo sta facendo, ho capito. Chiaro, no, privacy. Non cifratura. Sì. È un programmino che addirittura gira in torno, c'è anche per Windows, ma funziona male, è meglio utilizzare il collo, il CMD di command di Windows, anche di Windows 10 va bene. E decifra subito tutto, ti dice ma tutto cosa è, su quale slot, di quale gruppo appartiene, però la bella cosa, e poi c'è la voce, il segnale con soli. C'ho anch'io nel computer, oltre allo scanner, oltre agli apparati. E niente, è abbastanza semplicissimo, dai. E per quello che ti dico, per quello che ti piace la radio, ti dovresti un pochettino, come si dice, applicare, ecco. Lo lo so, però già c'era stato un calo della passione anche al baracchino, quel baracchino lì di mamma mia, di sempre studiare cose nuove. Brutta la depressione, Gianfra, detta tutta, no? Ma ho perso il filo adesso, porca miseria, una cosa... Lasciamo perdere discorsi di depressione. Se non c'è una passione, considerando che questi mesi non costano praticamente niente, perché non ce l'ha un banale cavetto, che non lo sa fare una parte da due punti. Ma guarda, se troppi uno è talmente messo male, non so neanche per la fondazione, e c'ha invece di qui non ha calcio, mette in 40 metri e si disqualifica, si scappa, insomma rispetto alle regole modulazioni digitali e anche delle grandi prestazioni. Pensa che quando c'è poco anche un po' più di preparazione, il canale credo dal 23 al 24, sempre il pacchetto che di una veste che hanno fatto finissimo. Che con quel sistema si può tranquillamente decifrare, ed è un resistente, un po' più su poi senti anche, vedi anche le immagini, possono mandarci immagini, diciamo. Quindi c'è tanto ancora da esplorare, e ti dà grande soddisfazione, perché stai tu da protezione. Allora, ho ricordato, i tedeschi lo chiamano discriminator, con la K pare, discriminato, sì, come hai detto tu, prendono l'audio dalla IF prima che entri nella... che vada amplificato l'altoparlante, ma dove sia più pulito. Poi loro non so cosa ci decodifichi, non se... lì ci sono altre frequenze loro da ascoltare, che lo so. Poi va bene, HF adesso non posso più ascoltare nulla perché non c'ho più niente di HF. Anzi, mi volevo regalare quest'estate di nuovo il Texum PL660 in modo da ricevere almeno la fonia con quell'antenna veicolare multiband. Naturalmente poi me ne ero stancato perché anche lì ascolti discorsi e boh, alla fine me l'ero venduto. Poi me ne pento mesi dopo, anni dopo, capito? C'è la roba alla fine per venderla, svenderla, meglio portarcela nella tomba e basta, e non vendere nulla. Beh, non è capitato di essere sceso a livello di regalo, io che mi sono portato in modi, IMR, proprio perché non erano utili per quello che dovevo fare io. Scusate che io ho due portatili che fanno da ripetitore. Il vostro suo canale la tecnologia intera professionale, molto molto performante. E non vorrei se funzionavano, abbiamo fatto delle prove con un altro collega radioamatore, se funzionavano quei ritmi di, come si chiamano, Balfa e questo raccaglio sono. Ma neanche a palla, guarda, non sono talmente scadenti che non hanno la stabilità per poter... Chi ascoltava diceva, non sento tipo, sento proprio perché secondo me non hanno neanche l'ambedue, che questa volta è molto costoso, originale, era qualcosa di taroccato. Sì, sicuramente roba taroccata, copiata malamente. Anche l'UV5R c'è adesso il corrispettivo DMR, no, analogico DMR, però ho sentito che spesso non... tipo con il Motorola non comunica, ha troppi problemi, cioè la roba è fatta bene per il digitale, è un pasticcio. Forse tra di loro ancora riesce a capire qualcosa, no? Tra Bao Bao e Bao Bao in DMR, però. Eia. Che ore sono fatte? 9:15, film non ce n'è. Dovrò provvedere cosa che c'è di vecchio, mi sa che mi guardo Zombie di Romero, quello del supermarket, il più bello peraltro. Ma ci sono tanti canali che danno prima adesso. No, io mi guardo qualche serie, sto guardando Star Trek, devo dire, quando Star Trek si cade, il comandante dell'Enterprise, questa l'ultima, è andata a pescare di quanto ammiraglio, devo dire che sono rimasto impressionato per l'attore Castellina rispetto a quello che abbiamo conosciuto, che ti ricordi sicuramente in Insurrezione, poi in Borg, Primo Contatto, eccetera, ed era, cioè, un uomo giovane, insomma, con cinquantina, però adesso è un vecchietto, non vecchietto, ma mi tocca, da paura. Finalmente sono andati, anche se, dunque, Picard, aspetta, mi sto perdendo, no, perché quando facevano nuove serie tornavano sempre indietro, no? Io l'ultima che mi ricordo di serie, almeno che abbia vagamente seguito, era quella che come tutte, come uniformi avevano delle specie di tutte da meccanico bluastre, aiutami, che serie era, Enterprise o prima? No, allora, dunque, questi con Picard, se intenderci, non c'era Spock. Spock, diciamo, era con il comandante James Kirk, e quelli sono i primi, sono arrivati fino a film. Io sto parlando di film, questa che sto guardando io è una serie, però è il continuo praticamente dell'ultimo successore, diciamo, dell'Enterprise, che è questo caso, è tutto, però quello che dicevi tu è sicuramente Kirk, qui c'era anche Spock. Poi, lasciando perdere sempre quello, poi che torna indietro, dici Dark Knight, c'è Kirk giovane, con un po' giovane, è riuscita, ben fatta, però è, questo è effettivamente tornato indietro. Mentre Picard, anche dopo che è sparito nel film. Guarda, poi sto leggendo anche altre serie che non... No, ti spiego, questa serie, l'ultima che avevo vagamente seguito, ma poi l'avevo abbandonata pure, si svolgeva prima della serie originale, The Original Series, prima. Però porca miseria, non mi ricordo il titolo, gli attori nemmeno. Boh, vabbè. Oramai è come li chiamano, una cosa storica, guardi, dai. Infatti io mi lamentavo quando c'erano queste serie sempre precedenti alla serie prima di Kirk, no, prima. Ho detto, come mai non fanno serie dopo? Io poi ero rimasto tipo Voyager, dove c'era quel capitano donna, no? Finivano dalla parte opposta della galassia e tornare era, sarebbero tutti tipo 70 anni a velocità curvatura massima. Però dopo quella serie ho detto, roba proiettata nel futuro, non li fanno, stanno sempre tornando indietro. Adesso vabbè, c'è sto Picard, però siamo sempre lì, ruotano sempre intorno a quella... a quel periodo. Speravo di vedere roba futura ancora più entusiasmante, magari che riuscissero a uscire dalla galassia, no, dalla nostra galassia, dico. Poi l'ho persa di vista, la verità, non... più che altro guardo i film, quello con quell'attore che fa Spock giovane, li hanno dati anche da poco in televisione. Sì, è quello che sto dicendo, che c'è chi è più giovane in accademia, poi c'è quando distruggono il pianeta di Spock, mentre invece questa serie sta dando una serie da Netflix, no, anzi Amazon Prime video, è con Picard che è praticamente vecchio, quindi è in pensione, eccetera. Quindi c'è tecnologia, hanno diciamo catturato uno di quei cubi del Borg, cose di questo genere, stanno esplorando le caratteristiche tecniche. Quindi è abbastanza, ripeto, è vero che è invecchiato diciamo come tempo, quindi finalmente è un attore che interpreta un personaggio che diventa vecchio, però anche è diventato vecchio attore, che si vede. Eia, allora, ho trovato un sito che dà una cronologia delle serie. Allora, quella che dicevo era proprio Star Trek Enterprise con la navetta NX-01, dove c'era quella vulcaniana che faceva parte dell'equipaggio, bellina pure, poi quella giapponese, l'attrice giapponese, il suo italiano a bordo che fa il medico ovviamente. Mi era piaciuta in particolare una puntata che era divisa in due parti, no? In uno specchio oscuro mi faceva vedere una galassia parallela con gli stessi personaggi però cattivi, dove la Terra era praticamente un impero non proprio benigno, no? Non benevolo, e rispecchiava più la natura umana. Invece in queste serie sono tutti troppo politically correct, troppo non credo che l'umanità ne uscirà così bene. Sarà come nello specchio oscuro, quella puntata là, no? Non so se ce l'hai presente. Sì, no, io mi ricordo invece sempre con Kirk, non so che però era un telefilm, non era un film, che è più interessante di norma, sono andato in questo pianeta in cui erano tutti ragazzi, tutti giovani. Praticamente non stavamo lì. Allora, tutti i padri, tutti i genitori, dove sono? Hanno contribuito al nostro benessere. Ho capito, ma dove sono? E c'era questa specie di ascensore in cui, credo dopo i 25 anni, dovevi entrare dentro, ti disintegrava e creava praticamente soltanto lo stile della popolazione, e tutti erano obbligati a entrare dentro questo ascensore a quell'età, quindi che oggi qui non c'era. Poi hanno indagato, hanno visto che c'era una fonte di energia e hanno scoperto che i 10 vecchi che c'erano erano quelli che comandavano. Un lontano ricordo. Aspetta, come stia sbagliando io. Vediamo a che punto sono arrivato qua. Un pasticcio hanno fatto per... Oh, questa pubblicità pure tutto schermo. Niente, è sparito tutto. Non sono riuscito a capire la continuità delle serie TV, non film. A un certo punto c'era una serie di mezzi ribelli, abbastanza brutta mi sembrava, l'ho abbandonata subito. Come dei ribelli, dei rinnegati, non ricordo neanche il nome della serie. E alla fine poi si stanchi anche di quello. Sì, meglio il film comunque, c'era una trama unica. Mi ricordo quello dell'annientamento di Vulcano, sì, la materia rossa, e bastava una gocciolina, chissà che roba era. C'era vietato, no? Sì, comunque è bello, ma a me piace anche molto quello di Predator. Il primo è stato eccellente, quello con Schwarzenegger, perché c'era il progetto in un contesto tipicamente umano, quello della guerra, della guerra di via. E quello era quasi un intruso che ci faceva una guerra con la foresta. E poi c'è stata, ma anche quello con Danny Glover, che era carino, e sono quelli che spacciavano e poi non hanno capito cosa era successo con la stanza. Ah, quello sì, contesto urbano, bande di narcotrafficanti. Aspetta, i primi due, poi vabbè, gli altri. Ah, poi io non capivo, nel secondo film con Danny Glover, no, quando il capo, diciamo, sembrava il capo di quegli alieni, regala quella pistola da pirata a Danny Glover, no? E si legge Rafael Adolini 1715. Io ho cercato anni fa su internet, ma non trovavo traccia. Poi ho scoperto pochi giorni fa che c'era un fumetto, anche vecchio, no? Dove faceva vedere che questo Predator era andato, quindi nel XVIII secolo, 1700 e tanti, a fare i suoi affari, e credo che si sia unito a questo pirata Raffaele Adolini per combattere, adesso non mi ricordo chi se erano, alieni tipo alien oppure altre persone. In punto di morte questo pirata ha regalato la sua pistola col suo nome al Predator, che poi nel film con Danny Glover è quello che la regalerà a Danny Glover come premio di aver battuto uno dei loro. Ecco, Rafael Adolini. Ma non ci, io all'epoca non ci dormivo, ho detto, ma chi è questo Rafael Adolini? Non ci sono tracce. Però è diventato loro secondo il 70% di scoccare. E poi tanti altri, anche lì. Sì. Beh, compra, ad esempio, ho comprato molto da Amazon, che viene Prime, perché ti dà tante serie, tanti film, riguardo il tutto del migliore. Non che sfrutti al massimo. Ehi, hai nominato il 100 anche, caspita, io qua al baracchino se ne parlo sembro l'alieno io, capito? Non ne seguono qua le quelle serie. Tu, giusto tu, dicevo delle la seccatura che si può vedere varie serie interesse, cioè un po' sono su Netflix, un po' sono su Amazon Prime, alla fine devi fare 10.000 abbonamenti per seguirle tutte quelle che ti interessano. E vabbè, no, il 100 vabbè, bellino, l'idea no, però troppo raffazzonato, il sangue nero, trapianti di midollo fatti così, con le attrezzature da meccanico, no, tutto troppo facile, dai. Poi radiazioni folli, quelli resistevano alle radiazioni per il sangue nero, ma vabbè, lasciamo perdere. Poi continui colpi di, troppi anche colpi di, come si dice, ma colpi di scena. Alla fine, vabbè, mi pare debbano fare l'ultima stagione, la stanno lavorando e la faranno forse 2020-2021 in TV. Sono riusciti a distruggere anche la Terra con i reattori che sono saltati definitivamente, hanno bruciato tutto, avvelenato definitivamente il pianeta. Poi vanno lì, peggio che mai, eh? Luna rossa, tossine prodotte dalle piante, ci si ammazzavano vicende, da un casino all'altro. Vabbè. Probabilmente l'hai vista sui canali CD, eccetera, 01. Io ho visto l'ultima anche, su Netflix, che deve far scappare con la tonnella in cui si può ibernare, non so se si è arrivato. Sono ibernati, sono scappati con questa astronave e grazie a quello cinese, diciamo, a quello cinese hanno trovato un nuovo pianeta di difficile. CP01, no? Non so cosa siano quelle, quello che hai nominato Gianfranco, sì, arrivano lì tramite il figlio di quello orientale più quell'altro, no? Che li ha tenuti ibernati, poi gli dà la bella notizia, no? Che ci sono usciti chissà dove, ma tu hai visto fin lì? Sì, poi la prossima sarà da l'anno. Sempre che non capisco, perché loro sono a bordo di quella astronave, hanno visto il pianeta, è abitabile, la terra promessa, guarda, adesso vediamo cosa c'è di più, se lo sono preso di più, non la vogliono più, sarà. Ah, quindi tu non hai visto le vicende che si svolgono sul pianeta? E lì come sempre fazioni opposte, per questi cosiddetti eterni, non voglio fare spoiler, no? Questi eterni loro, sanno solo loro come riuscivano a mantenersi, non ti dico niente, aspetta, anche perché non mi ricordo nemmeno io come è finita, boh. E anche lì tutto è andato, non ti dico niente. No, dimmi, poi c'è dopo la vita, ho visto Netflix, perché secondo lì mi ha seguito. Il santo microtorrent. Ah, no. Quindi la papà della prova ancora. Vabbè, tanto vi danno lì e si vede come si porta fuori in casa. Quindi, quante ce ne tocca ancora? Ah, usa e getta e non ne conservo io, perché tanto non mi devo riempire a dischi di demondezza. Aspetta, numero stagioni 7, credo. Quindi la settima la devono dare. Aspetta, The 100, ecco qua. The 100. Come stagioni 6? Aspetta. Ah, 6 quelle che hanno dato. Abbi pazienza. Episodi. Sesta stagione. Su Wikipedia sto guardando, Naturalmente. L'ultima puntata è Il sangue di Sanctum, vediamo se c'è la trama, c'è, però naturalmente non consiglio di guardarla, se no poi ti toglie il gusto. Comunque in questa serie ci saranno perdite di personaggi importanti, storici, che c'erano dalla prima puntata, purtroppo. Che ti devo dire? Vediamo come finisce, se me la ricordo alla fine. C'entra un'anomalia strana, un'anomalia spazio-temporale, sotto forma, sembra una specie di ciclone, va bene, inutile spiegarlo perché manco. Allora, boh, ah, ho capito, sì, va bene, e comunque alla fine, boh. Certe volte cose anche poco credibili, troppo raffazzonata, vabbè che è una serie di fantascienza, quindi la devi prendere per buona. Ok. No, ma la mia domanda era quella in cui loro incontrano un pianeta, che sono invernati, è la penultima serie, o c'è stato più 20 serie dietro questa? Ho detto serie, non puntate. Diciamo stagioni, allora se tu hai visto che loro ibernati e quello arriva al pianeta, quella era la fine della quinta stagione, tu non hai visto la sesta stagione e in più stanno lavorando la settima stagione che sarà l'ultima, quindi ricordati, tu dovrai vedere la sesta e la settima che è in lavorazione, la definitiva, perché veramente hanno rotto anche. Sì, sono proprio felice. proprio troppo umani, dai, umani non è stato peggiore, però rissosi, un po' pratici, ma vabbè. Poi sto guardando anche un'altra, che è quella di quel ragazzino che c'ha il robot di Robinson, ecco, quella era più intelligente, sempre stava più o meno la stessa, però era il pianeta che oramai stava morendo, ne hanno scopato un'altra, andavano lì, però evidentemente la buona intelligenza era stata prestata da qualcuno, e quindi cercherò anche di attaccare, sono stati attaccati da una specie di robot molto cattivi. I Robinson, caspita, non... Io ero rimasto ai Robinson, quello del, no? Quello che c'è da fare, le vittime, per violentarle. Ma te le immagini? Coso, Bill Cosby, vabbè. No, questa non la conoscevo, questa che hai nominato. E che ne so, carine c'erano Breaking Bad, Mr. Robot, anche se poi non mi è piaciuto il finale, l'ultima puntata. Poi che te devo dire, le serie più belle adesso non me ne viene una, cioè di tante viste non me ne viene una. Ascolta, invece di Prometheus, tutta quella roba pre-alien, Prometheus e Covenant, cosa ti è sembrato? Quelli non me li ricordo, perché sono venuti di tanti, poi scusano, no, piuttosto io, ma ho guardato uno che ho parlato tanti fino a vederlo, che non c'entra niente, ho fatto anche Marco Polo, poi ho detto che ho finito, c'era un altro colpo di scena, vado a sfogliare per vedere, va bene, la prossima cosa la dato un altro, perché un altro poi fanno il fallimento, ma roba davanti, ti mettono così, è qualcosa che ti stai appassionando, ti hanno fregato, vabbè. Poi vabbè, il Trono di Spade, Dante di Cappello, peccato per le ultime stagioni, ultimissime, hanno avuto fretta di concludere, vabbè. Una serie bella piccante, tutto, no, hai visto, non so se tu, fatti tradimenti, coso, gole tagliate, tutto ambiguo, mignote, froci, incesti, insomma una serie piccante. Beh, a parte le parti fantasiose, però sono stato con l'aspetto abbastanza realistico, dai, l'essere umano è così. Io sono arrivato via con la televisiva, perché non mi ricordo neanche chi lo trasmette, con il padre, che arriva in esclusiva qualcuno, ma non lo trovate, ma scusate, non so. E poi io il Trono di Spade l'avevo scoperto tanti anni fa per caso, facendo zapping, no? E praticamente si vedeva questa tipa nuda che passava nelle vie di questa città medievale, tutti la coprivano di insulti, di sputi, li tiravano feci. Ho detto, interessante, vediamo cos'è. Era quella puntata dove lei praticamente... come la regina, come si chiama adesso, viene il nome, no? La buona, la bionda, dei Lannister. Siccome aveva fatto salire al potere questo alto passero, no? Che erano tipo cristiani prima serie, no? O ti convertivi o ti ammazzavano, no? Ecco. Siccome lei era sospettata di aver avuto rapporti col fratello, infatti era vero, i figli non erano del re ma erano di lei e del fratello, no? Ha dovuto fare questo percorso purificativo e più avrebbe dovuto affrontare un processo. E quella è la scena con cui ho conosciuto il Trono di Spade, ho detto, ma sembra interessante. E allora da lì un po' ho cominciato a seguirla, un po' con la TV, un po' per altre vie. È bellissima, però è un culto oramai. Sono mai che avrebbe costato una sparata, queste scene, anche se sono state speciali, diciamo di PC, eccetera, però c'era molta pazienza, anche perché comunque esercizi anche lì, fare rilievi, costo certo. Quella lì però non lo so quando la daranno in televisione, non ho idea, ma stiamo più aspettando, dovrebbe essere l'ultimo oramai, la decisiva, il finale di stagione, cioè proprio il finale. Ma tutti criticano che hanno avuto fretta di finire. Quello che non mi piace, senza spoiler, è che qualcuno non sia stato premiato abbastanza alla fine, quello che era rimasto dopo tutto quello che ha fatto, dopo che si è prodigato, poi qualcuno che voleva liberare il mondo dalla schiavitù è diventata peggio degli altri, degli schiavisti dell'epoca. Senza spoiler, non ti voglio rovinare. Ho tante serie più o meno belle, certe sono un po' strane, tipo questo scritto D-O-A, O-A, sarebbe The Original Angel, vabbè, quella non si riesce a seguire, è un misto di quasi fantascienza, oppure fantasia, non lo so, non so come definirla. Poi questo Altered Carbon è tipo Altered Carbon, è una serie tipo quel cartone animato, come si chiamava? Ghost in the Shell, cioè gli umani hanno tutti un corpo artificiale dove trasferiscono l'anima o quel corrispettivo dell'anima, non so, questo chip che contiene le precedenze, tutta la coscienza e tutto il vissuto precedente anche. Però anche quella non la reggo, non mi soddisfa. E vabbè. E poi altre non le conosco, in realtà non è che... Ehi, se dovessi seguire tre serie, non capiresti più qual è il personaggio, cioè quale personaggio appartiene a quale serie. Io ce l'ho quasi tutte perché sono nella cosa. Poi, forse non ti danno seguito, però... Guarda, c'è questo... No, ma non ho proprio rovinato, insomma non può stare così imprendiabile di contatto. Ascolta, è miniserie, qualcosa hai seguito, tipo Black Mirror, quella che parla dell'abominio appunto del mondo moderno, l'elettronica, la roba digitale. No, perché sono c'è una trama scusa. Sono troppo ripetitivi, capito, sono uguali agli altri, quindi sono sempre lì. Ho tornato poco anche con l'altro, FBI, un po' lo guardo, troppo ripetitivo questo cambiamento. Molto bello era quello invece dei tanti, non so se lo scordi, trovo in televisione. Com'è il titolo? Non me lo ricordo, guarda. Era spettacolare, era fatto da due attori inglesi, era ambientato in terra, ma poi andava nella regione del mondo per operare. Avevamo due tipi di fatto, appassionato molto più. Comunque, passione dei motociclisti inglesi, e qua mi coglie impreparato, Sì, perché ce ne sono un saccaccio, è una cosa incredibile. Io guarda, tendevo a guardare quelle di fantascienza o surreali, oppure tipo medievale, epico, cavalleresco, tipo trono e spade. Vabbè, diciamo che questo Black Mirror, ogni puntata è fine a se stessa, non c'è una, cioè ogni episodio è indipendente dagli altri, una cosa ambientata in altri luoghi, in altri tempi, sempre nel futuro a breve, no? Però completamente una trama a sé, cioè inizia, finisce e poi cambia argomento ogni puntata. Ci siamo già, e per certe cose ci siamo già, come in Cina che praticamente hai un punteggio di gradimento per essere tipo cittadino modello, alla fine chi non è molto collaborativo, chi non è ben visto dagli altri, dal governo, praticamente fa lavori miserevoli e vive ai margini della società. Questo ha a che fare con la disperata ricerca che hanno certi anche sui social di avere like, di essere ben voluti, di essere, come si dice quel termine là, porca miseria, no? Questa è preoccupante la cosa, non mi vengono i termini, non mi vengono i nomi, non mi viene nulla, di essere... No, quasi, quasi, sì, come dicevo io, alla disperata ricerca della popolarità, ecco, popolarità. C'è una puntata in particolare dove tutti sono falsi in un modo estremo, sorrisini, coso, devi dare un punteggio a chi incontri, per ogni interazione con gli altri devi dare un punteggio, naturalmente meno punti hai, più ti vengono precluse posto di lavoro, tante cose, anche schifose a vedersi, tipo uno era più popolare, si è beccato il trapianto cardiaco, no? E quello che aveva, che ne so, 4.1 anziché 4.2, ha perso il cuore che era per lui, ed è morto semplicemente, credo che sia, a popolarità sembrava, e ce ne sono tante di quelle puntate. Vabbè, altre serie non le seguo, tipo questo La Casa di Carta, roba spagnola credo sia, no? Non lo so, miniserie anche tipo, non mi vengono i nomi, non te le lo dico, no, invece ti volevo consigliare proprio quello che ho nominato, La Casa di Carta, ci ha aiutato veramente molto il cuore. Io pensavo, lo trovo quasi per lasciare, invece devo dire che è appassionante, è anche interessante dal punto di vista della radio, perché c'entrano anche quelle nella famosa, questa vicenda, ti consiglio di sentirlo, solo dall'inizio, stando attento alle varie soluzioni che ci hanno questi eventi. Devo dire, sono stato molto bravo, perché è molto difficile fare un film sullo stesso argomento per così tanto tempo, diciamo, nel senso di mantenere l'attenzione, perché comunque i film sono statici, non riguardano nessuno, invece sono dinamici come questo, ci sono tante situazioni, e allora inizia a essere intrigante, capito? Perché su internet non ho voluto leggere molto anche per evitare di autospoilerarmi, però vedo sempre queste fesserie di maschere con i baffi all'insù tipo Salvatore Dalì, non mi sono voluto addentrare apposta, ma molti l'hanno valutata buona come serie, ma è una cosa diciamo attinente alla realtà o roba surreale, diciamo, almeno quello. È un po' difficile rispondere, è organizzato malamente, un'intelligenza molto molto alto, può essere reale, diciamo probabilmente un'intelligenza pensata alla altre cose, magari qualche sarebbe diventato di culo, ma intanto bisogna fare queste cose molto molto ardue, ecco, molto rischiose. Però ve lo consiglio, queste stazioni non so che sul filo vado io, sono veramente comunque guarda, mi interessa quello là, la terza figlia, e anche di lì entra sempre dopo 4 ore che pensi di aver visto il signore, non si fa per niente, sai dove ti adagi, quindi sviluppo sempre la battere. Allora, ho aperto Wikipedia, la casa de papel, casa di carta. Andiamo a trama, allora, narra gli sviluppi di una rapina estremamente ambiziosa e originale. Ecco, non dice altro però. Sì, io ho detto, io magari tratta solo di rapine, di malavita sarà. Va bene, 2 stagioni peraltro solo ne hanno fatto. Dove la danno questa? Così per saperlo mi. Andiamo più fatto. Potrebbero dare la sensazione che è un po'. Sai, per quanto sono fatti bene, per quanto tu segui il piano, piano. Quindi le famose opzioni, no? L'opzione A, l'opzione B, eccetera. Però molte di queste opzioni vengono spesso mancate dalla realtà, lo so, perché vanificate dalla cretinaggine anche delle persone, capisco, perché si continua a vedere tutto bene le persone, a volte come fanno via di questa. Eia, ecco qua, sono non tanti episodi nemmeno, dice episodi 23 stagioni 2, ma 23 episodi o in tutto? Forse in tutto? Sì, probabilmente. Va bene, ma io no, voglio iniziare quello che stiamo citando, tanto buonasera. Ciao già. Ehi Gianfra, dai. Se devi andare, ti saluto, qualcuno ha fatto capolino, avanti. Ehi AK, buonasera. No, sono entrato un attimino così a gamba tesa. Per altri motivi, se c'è la radio, beccato. Comunque, ciao Marco, salutoni a te, a Gianfranco, niente. Dai, ho acceso un attimino e scappo, sto cercando di aiutare un amico a installare una cosa in un computer, quindi sono venuto qua a scaricare roba in una pennina, e quindi niente, dai. Baci, abbracci e buona serata, dai, ok. Ehi, ciao già, dai, buona... Buon proseguimento lì al computer, ci sentiamo le prossime. Ciao Gianfra, come tu hai detto prima, vabbè, io avrei voluto provare qualche macchina virtuale, tipo quella ora col sandbox, come lo vuoi chiamare, per provare programmi ambigui, no, che non sai da dove vengono, però visto che bisogna sapere se dal BIOS è abilitata la macchina virtuale, il mio BIOS è Wi-Fi, non so niente di BIOS Wi-Fi, devo studiarmi tutto da capo, alla fine non farò nulla e faccio prima. Non ho più voglia di stare a spolverare manuali e cose. Ciao Gianni, buona serata. Anche se bacio a braccio in questo periodo, piuttosto del chiuso. Guarda, pensarli a malware di qua, come fai? Io ce ne avevo tante cose abbandonate, oramai se vuoi fare una navigazione di ritorno, se lo metti, C'è quella di Microsoft anche, però hanno detto che è un po' più ruvida nel funzionamento, una fama per le risorse, quella di Oracle, boh, l'hanno lodata, però non so niente, quindi studiare, mi devo guardare un po' roba. Io sono rimasto a XP, come tecnologie, come tutto, sono rimasto al 2004. Va bene, dai, buona visione, buon tutto, ciao Gianni, di nuovo, ci sentiamo le prossime. Ciao a tutti, ciao. Ok, ciao Marco, buona serata. E comunque, metti il browser, il start, magari rallenta un pochino, però è utile. Ok, ciao. Ciao ragazzi, buona serata a tutti. Parentesi, Oracle, italiano è oracolo, cioè, quindi è giusto tutto. Ciao, buonanotte. Va bene, fa pensare a Matrix, all'eletto anche. Io Oracle vado a casa, produce vari linguaggi, diciamo, va bene, scappo via, ciao. Ricomincia a piovere, stacco tutto, ciao, querete esecutivo, ciao. Ciao, buonanotte a tutti e niente, dai, la prossima. Comunque niente succede per caso, ciao, buonanotte, stacco anch'io. Ciao a tutti, ciao.